Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo su un tema cruciale stasera per la sostenibilità del sistema sanitario nel lungo termine, quello della telemedicina o Connected Health o e-health, come diavolo vogliamo chiamarla. Una sperimentazione di ampia portata è stata condotta in Lombardia. Parliamo del progetto Buongiorno Craig, che si è focalizzato sulla gestione dei pazienti cronici, i quali rappresentano, diciamo così, una sfida dentro la sfida, dato che le patologie croniche sono le più costose da gestire e sono da considerarsi in aumento per il futuro per effetto dell'allungamento dell'aspettativa di vita. Per parlarci di Buongiorno Craig abbiamo in linea con noi Gabriella Levato, vice segretario regionale di FIMG Lombardia, Federazione Italiana Medici di Famiglia, e referente appunto per conto di FIMG del progetto Buongiorno Craig. Buonasera Levato. Buonasera. Senta, partiamo dai dati sulle malattie croniche in Lombardia. Quanti sono i malati cronici, quanto costano? Facciamo conto che il 30% della popolazione lombarda ha una malattia cronica. Circa 3 milioni quindi di persone, no? Esatto, circa 3 milioni di persone. Per malattia cronica si intende quelle malattie che non possono essere curate, ma possono essere controllate durante la vita del paziente. L'ipertensione, il diabete, no? Sono queste qua. Esatto, per cui uno può avere ostruttiva, lo scompenso cardiaco. Uno può anche avere una vita normale, magari lo scompenso cardiaco un po' meno, ma no, una vita apparentemente normale, ma ha bisogno di essere continuamente monitorato. Esatto. Ecco, i costi di questa attività. Altissimi, perché se si pensa che il 30% della popolazione consuma l'80% delle risorse stanziate per il Fondo Sanitario Regionale. E come abbiamo capito, queste cifre sono destinate ad aumentare in futuro. E quindi veniamo a questo progetto Buongiorno Craig. In che cosa è consistito e chi ha partecipato? Buongiorno Craig è il modo con cui la medicina generale, in collaborazione con i propri pazienti, ha realizzato un modello, quello del Craig, un modello che Regione Lombardia ha deciso di attuare in questa regione sui pazienti che hanno una malattia cronica. All'interno di questo Buongiorno Craig abbiamo pensato che per far sì che il paziente non peggiori e perché anche il medico abbia una possibilità di gestire il percorso di questi pazienti, abbiamo pensato di utilizzare la telemedicina, il che vuol dire che qualora il paziente cronico debba fare un elettrocardiogramma, non deve andare in ospedale per fare un elettrocardiogramma, ma può farlo nello studio del proprio medico di medicina generale attraverso la telemedicina, o anche l'INR, che è la valutazione del tempo di protombina per i pazienti che sono scoagulati, o la spirometria per i pazienti che hanno la bronchite cronica ostruttiva, per esempio l'olter cardiaco, l'olter pressorio. Sono tutti esami che possono essere fatti in telemedicina e che permettono al paziente di rimanere vicino alla propria abitazione e nello stesso tempo al medico di controllare il percorso di questi pazienti. Su una parte di pazienti è stato eseguito il telemonitoraggio domiciliare. Su quali pazienti? Sui pazienti che hanno un elevato bisogno di assistenziale, quelli che vanno dal medico molto spesso, oppure quelli che dal medico non ci possono andare perché sono allettati a domicilio. Su questi pazienti, a seconda del tipo di malattie, alcuni pazienti possono avere anche fino a 6-7 tipi di malattie, certo, si decide un monitoraggio a domicilio. Ecco, che vuol dire che gli è stato proprio recapitato a casa un apparecchietto che serviva a misurare la pressione o l'elettrocardiogramma o qualche altro dato medico, no? Più che un singolo apparecchio sono dei kit che vengono costruiti dal proprio medico di medicina generale in base alla tipologia del paziente. Se il paziente ha l'ipertensione, si dà semplicemente uno sfigomanometro per misurare la pressione, certo, però se il paziente, oltre ad avere l'ipertensione arteriosa, ha anche il diabete, gli si dà un glucometro per misurare la glicemia. Se un paziente è scompensato, si dà anche la bilancia. Se un paziente ha la BPCO, si può dare un saturimetro. Tutti questi dati vengono convogliati su una piattaforma informatica e da questa su cui può accedere il medico che ha prescritto il piano di telemonitoraggio, ma prima del medico può accedere al centro servizi, che gestisce gli alert di fatto, cioè gli allarmi che nascono da delle misurazioni che sono fuori range. Quindi qui abbiamo il paziente che evidentemente si prende da solo le misure, queste misure vengono viste da tutto il personale sanitario che può avere motivo, naturalmente privacy garantita, ma che può avere motivo di vederlo, no? Di vedere questi dati. Più di 30.000 malati cronici coinvolti in questa sperimentazione, 300 medici, 3 anni di lavoro, adesso parte una seconda fase in cui arriverete forse a 80.000 pazienti. Le chiedo quando questo approccio diventerà la norma. Penso fra 3-4 anni potrebbe andare su tutta la regione. Grazie dottoressa Levato. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.